Eravamo una scena di Brazzel, soft porn, Angel e Devil visto softcore, bruciavamo tipo Molotov, ammannata come nei film. Top, teen, sex, sex tape nella mente di te e me. Un delirio se, un delirio se, un delirio se, un delirio se. Eravamo una scena di Brad softcore, Angel and Devil ha visto softcore, bruciavamo tipo Molotov, a Manhattan come nei film. Top teen sex, sex tape nella mente di te e me. Un delirio se, un delirio se, un delirio se. Il profumo del muschio selvaggio, profumo di maschio misto a Titanic, un po' di Asia Argento in te, unito all'imbruglia a fuoco di un campo di paglia, amore profano, fuoco fatuo ma non invano, tuffata Morgana, la mia Giovanna d'Arco eretica, sweet dream di Manson, il nostro viaggio erotico poetico. Il profumo del muschio selvaggio, profumo di maschio misto a Titania, un po' di Asia Argento in te, unito all'imbruglia, fuoco di una campo di paglia, amore profano, fuoco fatuo ma non invano, tuffata Morgana, la mia Giovanna d'Arco eretica, sweet dream di Manson, il nostro viaggio erotico, poetico, erotico, poetico, Kama Sutra. Punto G focalizzare, da sembrare un'astronave G spaziale, sulla nave del piacere, il tuo e tu il mio paradiso dei sensi in viso. Il padrone tu Geisha, inchiostro di Lucifero e santità di Cristo, il nostro amplesso vero. Tu cura e poetessa del sesso, io malato e maestro, Kama Sutra. Chiamami maestro, vostro servo, dizionario da letto, chiamami marito, chiamami solo come tu sai, ma percepisci solo me e io te, e voleremo, bruceremo, infine nel letto brilleremo, e infine nel letto brilleremo. XXX, sigla di un sex tape celebrale, romantica, come un viaggio a Parigi, selvatico, come l'Africa tutta, dolcezza nella durezza, suona ancora il sapore d'ebbrezza. XXX, sigla di un sex tape celebrale, romantica, come un viaggio a Parigi, selvatica, come l'Africa tutta, dolcezza nella durezza, suona ancora il sapore d'ebbrezza. XXX, sigla di un sex tape cerebrale, romantica, come un viaggio a Parigi, selvatica, come l'Africa tutta, dolcezza nella durezza, suona ancora il sapore d'ebbrezza. Kama Sutra, Kama Sutra, Kama Sutra. Eravamo una scena di Brad softcore, Angel and Devil visto softcore, bruciavamo tipo Molotov, a Manhattan come nei film. Top teen sex, sex tape nella mente di te e me. Un delirio se, un delirio se. Kama Sutra, Kama Sutra, che Kama Sutra, Kama Sutra, Kama Sutra.